Unità 2. Per capire. Traccia 10. Pronto, Hotel Giulietta, buongiorno. Buongiorno, chiamo dal Canada. Vorrei sapere se avete una stanza per due persone per il 26 di giugno per 4 notti. Un momento che controllo le prenotazioni. Sì, abbiamo ancora posto. Ah, bene. Quanto costa per notte? Allora, sono 100 euro con la prima colazione. D'accordo. E senta, scusi, vorrei sapere se la stanza ha il bagno. Sì, certo, tutte le stanze hanno il bagno in camera. Benissimo. È possibile prenotare una camera con vista, magari con un balcone? Purtroppo non abbiamo stanze con balcone, però posso darle una stanza da cui si vede l'arena. Ah, va bene. Allora prenoto una stanza doppia. Ha detto per 4 notti? Sì, ci fermiamo il 26, 27, 28, 29 e ripartiamo il 30 mattina. Va bene. Scusi, mi dice il suo nome, per favore? Todd Cooper. Scusi, come si scrive? T-O-D-C-O-P-E-R. Va bene, d'accordo. Vi devo mandare una caparra. No, non è necessario, se paga con la carta di credito. Ah, benissimo. Vuole che le lasci il numero adesso? Sì, grazie. È una Visa. E il numero è 035 47 26 32 63 8. Va bene, allora l'aspettiamo per il 26 di giugno. Grazie e buongiorno. Arrivederla.